se n'è andato Robin Hood, l'hanno fatto andare via, ne ha parlato tutti bene, e la gente che lo teme brinda e urla ora insieme, per non farlo più tornare. Era buono Robin Hood, era un uomo come tanti, impegnato intensamente a difendere la gente che nella foresta attende. E non lo vede più tornare, torna, torna grande arciere, torna a vincere il potere, di che soldi può rubare, di che tanto non vuole dare, torna, torna nel reame, torna a rompere le trame, di che soldi può rubare, per chi ha pianto non può gridare, na na na, na na na na, na na na. Robin Hood ha solo fatto il suo dovere, ha tirato con le frecce per graffiare quelle facce che erano dure come rocce, e non si rompeva mai orgoglio. Ha dato Robin Hood alla gran massa impotente che va via dalla foresta, esce fuori ora a far festa, e anche se il suo eroe non resta, non lo può dimenticare. Torna, torna grande arciere, torna a vincere il potere, di che soldi può rubare, di che tanto non vuole dare, torna, torna nel reame, torna a rompere le trame, di che soldi può rubare, per chi ha pianto non può gridare, na na na, na na na na, na na na. Ormai l'arciere se n'è andato e non ci pensa a ritornare, la fama e il nome sul giornale non gli fan certo piacere, le sue imprese erano amate perché esprimevano il dolore della gente delle strade, della gente come noi, chi le ha strumentalizzate e le ha lette a suo favore, ha svegliato e rafforzato quest'Italia che non muore. La la la la. Torna, torna grande arciere, torna a vincere il potere, di che soldi può rubare, di che tanto non vuole dare, torna, torna nel reame, torna a rompere le trame, che soldi può rubare, per chi ha pianto non può gridare, na na na, na na na na, na na na.